spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Minuti dopo le 8 e siamo di nuovo insieme per riprendere il filo che avevamo interrotto. Parla di parità di salario, ma non solo. Sono tantissimi i messaggi che ci avete mandato e continueremo fino alle 10 a parlare di diversi temi, ma prima di andare a incontrare il nostro corrispondente straniero, colui che porta una visione diversa sull'Italia e dall'Italia, vi anticipo il tema sul quale già vi state scatenando a livello di SMS, naturalmente. 349-238-6666, innanzitutto questo è il numero, cioè a parità di salario, quali sono quegli incentivi, quegli elementi non economici che vi spingerebbero non solo a prediligere, ma anche a star bene, a vivere bene quel segmento così importante nella vita di ognuno, che è quell'arco di tempo che dedichiamo al posto di lavoro. Ebbene, ci scrivete che soprattutto è l'umanità. Roberto ci manda un messaggio da Caserta e ci parla dell'educazione di chi è sopra, l'educazione del titolare. Questo è un elemento molto rilevante per tanti dei vostri messaggi, il rispetto, come si viene trattati soprattutto a livello gerarchico da chi in qualche modo impartisce le direttive. Non vogliamo parlare di ordini, non siamo, per carità, in un esercito. E poi ancora ci segnalate, questo è Andrea, non so da quale città scriva, ma Andrea dice la flessibilità dell'orario di lavoro per conciliare i problemi che inevitabilmente una persona adulta ha con la famiglia, e molte aziende là dove lo si potrebbe applicare non riescono e non vogliono applicarla perché sono ancorate a vecchi retaggi. Dobbiamo essere considerati delle risorse e non una voce del libro uscite, questo invece lo scrive Roby. Si chiama appartenenza, io sono Fiorella, un altro messaggio, e ho avuto l'offerta dal nostro più grande concorrente rispetto all'azienda in cui lavoro, non ho avuto dubbi, l'azienda in cui lavoro la sento mia, mi ripaga con rispetto, mi fa sentire in armonia con la mia famiglia e quindi io non la tradisco. È come il matrimonio, esagerato? Siete d'accordo? È la situazione che state vivendo, quella che sognate? È molto importante come ci si trova sul posto di lavoro o qualunque posizione si ricopra in questo momento, perché inevitabilmente questo ha delle ricadute sul benessere non solo dell'individuo ma della famiglia. Lo dicono in continuazione gli allarmanti reportage che dovrebbero essere forse anche approfonditi e ripresi più spesso sul livello di stress e quello che lo stress fa fare. E dunque ribadiamo quello di cui discuteremo oggi: le aziende italiane sono in linea con ciò che sarebbe necessario applicare anche a livello di policy per far sì che chi vi si trova, chi vi lavora, sia in una condizione se non di realizzazione, quantomeno di benessere? 800 24 00 24, questo che vi ho dato, quest'ultimo numero, attenzione, non digitatelo, non è un SMS a cui inviare un messaggio, è il numero verde, la linea telefonica. Però le telefonate saranno in diretta dopo le 8:30. Per ora scriveteci la vostra esperienza, il vostro pensiero con un messaggino: 349-238-6666. Visti da fuori. Dove andiamo oggi, grazie ai nostri ospiti che si prestano a farci da giornalisti corrispondenti? Dal paese che in realtà raccontano a popolazioni molto vaste. Per esempio, il nostro ospite di oggi parla solo in Argentina a 40 milioni di persone. Il corrispondente di Radio La Red, una radio di Buenos Aires. Hola Andres. Ciao Irene, ciao a tutti. Andres Beltramo Alvarez, l'avete sentito, un giornalista, lavora per diverse agenzie di stampa, ma oggi ci soffermiamo sulla sua esperienza radiofonica con la radio di Buenos Aires. Innanzitutto, Andres, da quanto tempo ti trovi in Italia? Dal 2006, inizio 2006. Complimenti per l'italiano, non è una lingua facile e l'abbiamo appreso da molti che ci segnalano questa difficoltà, soprattutto quando si viene, questo è stata una nota così un pochino inattesa, da una lingua simile, cioè sembra che chi parla lo spagnolo e viceversa chi parla italiano abbia più difficoltà ad apprendere una lingua a volte simile, bene, a un livello alto, di chi viene da un campo semantico e glottolo logico completamente diverso, sì. Diverso. Strana molte questa cosa. Dicono, sì, molte persone dicono questo. Per me è successo all'incontrario, nel senso che io mi sono trovato molto facilmente con l'italiano, essendo simile allo spagnolo. E poi in Argentina ci sono tante parole, usiamo tante parole, tanti modismi, come si dicono, italiani, quindi c'è una somiglianza che per me non è stato un problema. A volte dicono che essendo così simile potrebbe prestarsi confusione, a me no, non è successo questo. Questo ci fa molto piacere, Andres, naturalmente. Sì. Dedicheremo anche una puntata a come si apprendono le lingue, perché poi tutti qua in Italia le studiamo, le facciamo, ma come si impara una lingua, quali metodi richiede? E noi sappiamo che tanti italiani hanno invece viceversa dovuto imparare lo spagnolo, ce l'hai già segnalato tu, la presenza di italiani. Tu hai qualche parente italiano? Sì, ho diciamo... tanti anni fa, più di 100 anni fa, i miei bisnonni, 4 dei miei bisnonni, non so se si dice così, ma sicuramente sì, i genitori di miei sì, nonni. Sì, bisnonni, bisnonni. Sono andati, erano italiani, sono andati in Argentina e lì tra di loro sono sposati o poi hanno trovato degli argentini, hanno fatto famiglia e poi quasi la metà degli argentini abbiamo antenati italiani, quindi c'è la cucina, c'è molta presenza, la musica, le parole, anche i dialetti. I miei bisnonni erano del Piemonte e io mi ricordo mia nonna faceva sempre, quando faceva un po' di freddo, faceva la bagna cauda, no? Che per quelli del nord è una cosa, a me piaceva tantissimo, la faceva molto bene, ma noi non sapevamo che in realtà era un cibo italiano, era così naturale mangiare con la nonna questa cosa e altre cose, quindi è sempre una presenza storica che per noi è molto comune, no? E la contaminazione della cucina, che poi non è chiaramente limitata all'ambito enogastronomico, un indicatore importante. E l'indicatore è che gli italiani sì sono andati in Argentina nel dopoguerra e si sono mossi, spostati, milioni di italiani raggiungevano il Nord America, il Belgio, la Germania e l'Argentina, e oggi a Buenos Aires ci sono tantissimi passaporti italiani, quindi non ci stavamo soffermando semplicemente su una nota biografica del nostro ospite, ma su una realtà che molti di noi in Italia tendiamo a dimenticare, a rimuovere, perché gli italiani continuano ad emigrare in Argentina, è così, Andres? Certo, sì, io ho saputo di tante persone, che soprattutto giovani, che non solo in Argentina ma anche in altri paesi dell'America Latina, no? Che adesso è una regione che con i suoi problemi, con le sue difficoltà, ha tante opportunità, e questo è simbolico pensando 10 anni fa come era l'Europa, come era l'Italia e come era l'America Latina, ma adesso sono un po' cambiati i ruoli, ad esempio nel Cile, che economicamente è anche molto attrattivo, che ci stanno arrivando tanti spagnoli, tanti italiani, tanti europei, anche... certo, c'è questa emigrazione degli europei all'estero in Sud America. Sì, giovani che cercano dei posti di lavoro, che sentono che sono una possibilità, un vantaggio, e che magari qui non trovano le soddisfazioni, le sue esigenze o anche un problema economico importante, no? Giovani laureati, come sono stati accolti gli italiani in Argentina rispetto a quello che tu hai raccontato anche nella tua radio, oggi gli italiani fanno con gli immigrati, cioè ci vedi dei punti di contatto, vedi delle sostanziali differenze? In Argentina ci sono state 2 grandi ondate di migliaia di persone europei e soprattutto italiani negli ultimi 100 anni. Dopo la guerra dell'Unità d'Italia c'è stata una prima ondata. La prima, sì. Sì, alla fine del Novecento, che evidentemente, e lì sono stati i miei bisnonni che sono andati, evidentemente era una cercare un posto nel mondo, perché c'era un grande trambusto in Italia, in Europa, guerra, difficoltà, e soprattutto del nord e del mezzogiorno sono andati in Argentina. E molti sono arrivati e hanno avuto la terra, perché poi c'era anche una politica, diciamo, di incentivare la vicinanza, l'arrivo degli italiani o degli europei, per popolare grandi vasti posti di... Chiaro, poi c'è stata questa terra, seconda... Poi arriviamo alla seconda ondata del dopoguerra. Dopoguerra, ma tutte e due hanno questa stessa caratteristica di essere... degli immigrati che sono arrivati non nel niente, nel senso che molti che sono arrivati dopo guerra avevano i parenti vecchi là, no? E hanno avuto, molti di loro hanno avuto il lavoro, e oggi ci sono tanti imprenditori che hanno antenati italiani, o che sono venuti dall'Italia, o che sono figli, no, di italiani. Io mi ricordo, il mio suocero... il più famoso si chiama Bergoglio di cognome. sì. Il mio suocero è figlio di italiani della Sicilia, è il nonno di mia moglie, è arrivato dall'Argentina, e mi raccontavano che c'era anche la casa dell'immigrato, che quando si arrivava, era un posto, un palazzo, o palazzi diversi, diverse città, dove arrivavano questi immigrati e per un mese, due mesi, tre mesi potevano soffrire dei servizi bassissimi, diciamo, quasi anche alcuni regalati, no? Per poi inserirsi nel paese, trovare un posto di lavoro, e trovavano molte volte nelle fabbriche o poi nei negozi questi posti di lavoro. Tu parli di Bergoglio, la sua famiglia è andata là e ha comprato un palazzo, ha fatto un negozio, poi dopo i suoi genitori sono andati in Buenos Aires. Diciamo, hanno trovato questa accoglienza che magari oggi, essendo il secolo XXI, no? Che magari abbiamo più mezzi per poter imparare dalla storia e accogliere, trovare... e invece. E poi non erano viaggi facili, no? Non erano viaggi facili, ricordiamolo, no, prendevano settimane sull'oceano, in nave, certo, un mese non era come oggi, per cui insomma c'è il disagio del check-in quasi e si va. Erano viaggi che hanno anche questo punto di contatto con gli sbarchi, e quest'acqua, questo mare, uomini, donne giovanissimi che non avevano mai lasciato il paese, che non sapevano cosa li avrebbe attesi. Ci sono storie molto toccanti, incredibili, che arrivano dall'Argentina e che però noi italiani non insegniamo nelle scuole, non parliamo mai di questo nostro passato di miseria, letteralmente, ed era l'altro ieri. Quindi Andres, io ti ringrazio per avercelo ricordato, mentre sono già partite le note di Bakalov, che è un pianista argentino, lo conoscete, è autore anche di numerose colonne sonore. Dimmi una cosa che l'Italia dovrebbe esportare, secondo te, anche qualcosa di non tangibile, di non materiale, una cosa che porteresti subito in Argentina se tu potessi, una caratteristica. A me piace tanto il senso di unità familiare italiana, e quello, secondo me, non solo dovrebbe esportarsi, ma dovrebbe riprendersi, perché credo che si sta perdendo un po'. E in realtà non è che ne ho bisogno di portare in Argentina, perché noi abbiamo imparato da questo. Le domeniche insieme con la pasta, con la famiglia, questo è una cosa che a noi ci ha segnato tantissimo e che secondo me l'Italia dovrebbe ricordarsi. Grazie ad Andrés Beltramo Alvarez, l'avete sentito, è un giornalista dell'agenzia di stampa Notimex, città del Messico, copre un po' tutto l'America del Sud, e per Radio La Red, che è una radio di Buenos Aires. Continuiamo con questo omaggio anche alla musica argentina. Sì, l'abbiamo riconosciuto, sono colonne sonore molto importanti quelle firmate da questo Bakalov. Noi ora sfumiamo anche questo ricordo e queste note davvero evocative, ci ricordano film di Quentin Tarantino e non solo, perché ci ritroviamo tra poco per parlare di perdono. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. si continua a cercare di spiegare una ragione a volte di perché certe cose accadono e naturalmente poi la deriva è sempre quella dell'odio, della vendetta. Stiamo parlando della vicenda della tabaccaia uccisa e in questi giorni, al di là e sopra questo dolore devastante della famiglia, sono sentiti i genitori di Maria Luisa, questa signora di Asti, dire: aiuteremo la figlia del killer. E la notizia è detonata come una bomba. Se la figlia dell'uomo che ha ucciso la nostra avrà bisogno, hanno detto, noi ci saremo. Questa è una frase che poi si sono rimpallati tutti i quotidiani. Abbiamo saputo, ha detto infatti il padre Piero Fassi, che quest'uomo ha una figlia malata nel nostro piccolo. Se potremo, faremo ciò che è nelle nostre possibilità per rendere meno dolorosa e meno solitaria la sua sofferenza. Ma come, si sono chiesti molti, com'è possibile? Come si fa? Come si arriva a questo livello di dignità, di nobiltà, d'animo? Noi ne saremmo stati capaci? È chiaro che sono interrogativi che hanno scosso un po' tutti. La sua famiglia, ha detto il padre alla tabaccaia, sempre riferito al killer, è stata uccisa anch'essa da questo gesto folle, e la sua famiglia non ha colpa per quanto è successo. Don Marco Pozzo, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Don Marco Pozza è con noi perché è teologo ed è il parroco del carcere Due Palazzi. Cos'è questo carcere? È un carcere di massima sicurezza di Padova e ha scritto un libro che proprio di perdono parla, si intitola L'imbarazzo di Dio. Lei ha a che fare con ergastolani, con omicidi. Quante sono le persone nel carcere che si confidano con lei, si aprono con lei, Don Marco? Ma più passa il tempo, più le persone si aprono e si confidano. A noi nella legge evangelica ne basta recuperare uno e abbiamo dato un senso a tutta questa fatica che facciamo dietro alle sbarre. Ma ha colpito molto un suo articolo che tra l'altro si trova oggi sul Mattino di Padova e dice: ha fracassato una famiglia, il riferimento è sempre al killer di Padova, ne ha trovate due pronte a tendergli la mano, la sua e quella della vittima. Pasqualino Folletto, in questi giorni al centro di diverse accuse, non solo d'omicidio, ma essere vittima del vizio del gioco, aver sperperato l'accompagnamento, l'assegno d'accompagnamento destinato alla figlia, ne ha tre di bambini quest'uomo, di 11 anni, perché la ludopatia e quindi la dipendenza soprattutto dalle macchinette l'avrebbero portato. Ah, ma al di là di queste note, che naturalmente verranno sciolte nel corso del dibattimento quando ci sarà, perché per ora sono solo dichiarazioni, certo, colpisce l'atteggiamento della famiglia della vittima? Ma colpisce, diciamo che più che colpire mette in imbarazzo le persone presunte normali come sono io, persone che fisicamente non hanno mai ammazzato nessuno. Colpisce soprattutto per due sfaccettature questa vicenda, queste dichiarazioni che suonano come se nell'animo di questa signora, al quale è stata tolta una figlia, fossero la cosa più normale, più ovvia. E questo impensierisce ancora di più perché lasciano trasparire uno stile di vita che è quotidiano, non è dettato dall'urgenza di questi giorni. Ma quello che a me ha colpito, al di là di queste parole, che non sono parole di perdono, diciamo che sono parole che dentro alle macerie di questa bomba che ha deflagrato in negativo fanno esplodere qualcosa di bene. Ed è il tentativo che fa questo padre, che per uno che lavora in carcere come me, come tante persone, sappiamo non è una cosa normale, che non è tanto quello di giustificare il gesto che quest'uomo ha compiuto, perché il male, no, e questo ci tengo a sottolinearlo per rispetto soprattutto anche delle vittime, il male non va mai giustificato, il male non c'è una giustificazione. Ma quello che secondo me di allucinante e di profondamente umano contengono le parole di quest'uomo è il tentativo di comprendere il perché di questo gesto. E se giustificare il male non è mai lecito, la comprensione di un gesto invece, oltre che essere lecita, è anche doverosa, perché il gesto, soprattutto i gesti più estremi, hanno sempre una radice e cercare di risalire alle radici di questo gesto non è solo un motivo per mettere in pace il proprio cuore, ma è per cercare anche di evitare che questo gesto poi si ripeta. Ma quando lei dice è un atto imbarazzante questo tentare di capire, questo perdono, adesso noi l'abbiamo definito in questo modo, è un atto imbarazzante, perché parla di imbarazzo Don Marco Pozza? Che significa? Perché l'imbarazzo per me è un termine che ha una spaccettatura molto positiva, ovvero sia un qualcosa che tu, almeno io, no, per parlare in prima persona, non metteresti assolutamente in conto come risposta prima, come risposta immediata a un gesto così. Imbarazzo perché? Perché tantissime volte, lo vediamo anche noi, no, in questi ultimi periodi, si cerca in tutte le maniere di togliere, no, qualsiasi radice che richiami ad un cristianesimo, richiami ad una bontà d'animo dentro all'uomo. Però poi c'è, cioè, gesti come questi, parole come queste, no, ti aprono, è come se aprissero degli spiragli, non tanto su una religione diversa, non tanto su un credo diverso, su un Dio diverso, ma su una possibilità diversa di essere uomini. E allora tu vedi che l'uomo, i due uomini che entrano in gioco in questa vicenda, sia il presunto assassino della tabaccaia, sia il papà di questa signora, cioè ti dicono che l'uomo può fare un controllo spietato su quelle che sono le emozioni, i pensieri, il modo di ragionare dell'uomo stesso, ma, e questo ci tengo a sottolinearlo, c'è un Dio che è sempre in agguato. E quindi dentro anche al male più oscuro, la minima fessura, come ha detto lei all'inizio nell'introduzione, c'è la potenza detonante di una bomba. E come il male da parte sua è negativo e si fa pubblicità da se stesso, fa piacere che in questi giorni questa notizia sia tornata alla ribalta della cronaca, invece per il suo esatto opposto. Quasi a dire, questa vicenda ci mostra le due possibilità che ha l'uomo di essere angelo e di essere bestia, di essere capace del male inimmaginabile ed essere capace, no, nello stesso tempo di un gesto di bontà che sì, è ma che effetto ha poi, lei che ha esperienza, lei ha a che fare tutti i giorni con 300 ergastolani, con persone che hanno ucciso, un gesto di questo genere, che effetto ha? Lei ha detto non si può giustificare il male, non può passare anche come una giustificazione, che effetto ha su chi lo riceve questo perdono secondo lei? Guardi, le faccio una confidenza, in carcere a mie spese, perché io sono un ragazzo che è nato con il bianco e con il nero, sono un ex ghigliottinaio e per farmi maturare il signore mi ha messo in mezzo a camminare con questa gente. Cosa vuol dire un ex ghigliottinaio, scusi? Nel senso che io sono sempre stato abituato a pensare che chi sbaglia deve pagare e deve pagare marcire dentro al carcere, solo che facevo un piccolo errore, che a sbagliare sono sempre gli altri. E invece mi sto rendendo conto in questi anni che sbaglio anch'io, magari non a quei livelli, ma il principio dello sbaglio è anche dentro di me. Ed è per questo che io sto imparando a mie spese che ci sono tre tipi di perdono in carcere. Il primo perdono è quello che viene da Dio. E qui sulle orme di Papa Francesco, ma se permette ancora prima sulle orme del Vangelo, se c'è il pentimento vero, ok, il peccatore è perdonato da Dio. Dio vuole, non vuole che il peccatore muoia, ma che si converta e che torni a vivere in maniera diversa. La seconda forma di perdono che entra in gioco in questa vicenda è il perdono che una persona che ha ucciso, per esempio, riceve dai parenti delle sue vittime. E grazie a Dio questo noi in carcere vediamo storie meravigliose di gente che si è riconciliata con se stessa e ha voluto guardare in faccia chi ha ammazzato un figlio, un parente, una moglie, un marito e gli ha concesso la grazia del perdono. La terza forma di perdono, che paradossalmente è la più difficile da ricevere, è il perdono verso se stessi. Ora, in carcere la mia gente mi insegna che le prime due forme di perdono sono tutto sommato anche quotidiane e facili da riceversi. Ma c'è questa forma di perdono, cioè questo perdonare se stessi quindi, amare, sì. Amare se stessi nel momento in cui tu prendi consapevolezza del male che hai fatto e non te ne capaciti, e questa è una forma di perdono che è difficilissima. Ecco perché questo gesto, queste parole mi confermano una certezza che sto maturando in questi anni all'interno del carcere, che se tu vuoi cercare di mettere in discussione, vuoi mettere a capo con un colpo definitivo una persona che veramente c'ha l'atrocità nel cuore, il perdono è la cosa più devastante. Più devastante. Perché la persona quasi una vendetta, può... scusi il termine, cioè... diciamo che il, non so, una persona che ammazza, conosci la legge della violenza, se tu le rispondi con la violenza lei si difende, ma se tu le rispondi con la legge della bontà, la legge dell'amore, lui è come una casa che è senza il tetto e quindi non ha un sistema di protezione, ed è lì all'interno di questa fessura, di questa crepa, che tante volte ha riparte anche un percorso di riconciliazione con se stessi e poi di riconciliazione con la società, perché se io non mi riconcilio con la mia storia è una farsa quella di dire che sono in pace poi con la società. Don Marco, ecco perché... rimanga con noi perché ha naturalmente saputo aprirci, e poi per esperienza diretta, un mondo, è come se ci fossimo affacciati sul carcere in cui lei lavora, grazie a questo squarcio che poi ha tracciato in un articolo che si trova questa mattina anche sul giornale locale Il Mattino di Padova. Ma soprattutto ci interessa sapere se quanto lei ci ha detto, ovviamente con una visione da cappellano di carcere, da prete, da credente, ha dei riscontri anche giuridici. Professor Silvi è con noi, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi l'abbiamo disturbata perché lei si è dedicato invece alla struttura giuridica del perdono e ha scritto un libro che si intitola proprio così, per Franco Angeli, insegna filosofia analitica e teoria generale del diritto a Milano, all'Università Bicocca per essere più precisi. E lei, professor Silvi, cosa da laico, cosa la fa pensare quanto sentito dal cappellano che tutti i giorni lavora nel carcere con 300 persone condannate all'ergastolo? Beh, è una cosa molto, come dire, anche un po' molto, da un certo punto di vista, molto lontano dall'analisi, no? Quando si parla di struttura giuridica del perdono, che sembra un discorso più astratto, però sotto certi aspetti anche vicino, nel senso che sono dimensioni queste che fanno un po' riflettere se su molte concezioni, da cui poi io sono un po' partito un po' criticamente, che ritengono che il perdono sia un qualche cosa di estraneo al diritto. Io ho indagato il tema sotto il profilo, diciamo, filosofico, quindi filosofia del diritto, partendo proprio da alcuni filosofi, anche pensatori elevati, per cui il perdono rappresenta, è sempre visto come un'eccezione, come un qualcosa di straordinario che nasce appunto da contesti morali, etici, in qualche modo estranei al rigore della legge, che la legge è legge, quindi quando viene infranta deve essere rispettata. Ci vuole rigore e il perdono non può essere considerato un attenuante, secondo lei, o non può avere una ricaduta dal punto di vista giuridico? Ma approfondiremo naturalmente questa frase, abbiamo un pochino semplificato, sintetizzato anche per provocare, cerchiamo di capire dal punto di vista dell'ordinamento quali effetti può avere questo tipo di contesto. Prima però, 8:46, la gente si è messa in viaggio, siamo sempre a fine luglio, molti si stanno spostando anche per vacanze, villeggiatura, molti stanno rientrando, addirittura andiamo a vedere qual è la situazione. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Non col mio pulsantino del microfono, ma si sta tranquilli anche sulle strade. Dopo le 9 stanno arrivando moltissimi messaggi e per questo apro questa parentesi. Parleremo di come si vive da dipendenti, nel senso che nelle aziende si consuma una parte molto consistente della vita dell'individuo, che poi si porta i problemi del lavoro anche fuori, a casa, in famiglia, spesso con delle ricadute poco soddisfacenti, o viceversa, quando è realizzato con un grande senso di soddisfazione quasi contagioso. Quindi oggi parleremo proprio di engagement, un brutto termine perché in inglese vuol dire, diciamo così, attaccamento, fidelizzazione, credere in quello che si fa nelle aziende. È un fenomeno sempre più studiato perché si cerca di capire, al di là del salario, al di là dello stipendio, e questa è la domanda che stiamo girando a voi, quali sono quegli elementi che vi renderebbero o vi rendono, se avete la fortuna di viverli e di sperimentarli, più attaccati a quello che fate, più appassionati, più motivati soprattutto. Dateci questi spunti e poi li condivideremo insieme. Come farlo? Con un sms al 349-238-6666 o telefonandoci all'800 24 00 24. Ma come detto, è il tema che affronteremo dopo la boa delle 9, dopo il GR delle 9, perché ora stiamo parlando di perdono. I genitori della tabaccaia di Asti, con un gesto che ha lasciato tutti ammirati quantomeno, ma sbalorditi, che ha fatto pensare, hanno dichiarato: aiuteremo la figlia malata di quell'uomo che ha ucciso la nostra. E quando si rivolgono a lui lo chiamano il Signore che ha ucciso la nostra. Questo restituire la dignità, questa nobiltà, naturalmente, in questo gesto ha colpito e fatto pensare. Una sorta di perdono. Ma il perdono è un argomento giuridico? Un po' come si richiede in certe strutture, in certi sistemi giuridici, cioè il perdono delle famiglie poi incide anche sulla pena, sulla sentenza. Chiaramente tutto ciò non accade in Italia. Professor Marco Silvi, riprendiamo da lei. Sì, in realtà appunto no, questo aspetto specifico non si verifica, diciamo così, in Italia, anche se a mio avviso questo è un po' l'esito un po' quello della mia ricerca sul perdono, è che il diritto è pervaso, è pieno di atti di perdono in qualche modo. In che senso? Forse nel senso che noi possiamo immaginare, quando di solito si parla di perdono, se lei va a vedere un po' le leggi, il nostro ordinamento, compare solo in un istituto, no? Il perdono giudiziale per i minorenni, non è un caso forse che si parli di perdono solo per i minori, ma in realtà, perché c'è sempre un po', soprattutto in un diritto un po' laico e secolarizzato, c'è sempre un po' il timore di usare una parola così carica di concezioni, così carica di evocazioni anche religiose, emotive, lei dice. Anche religiose, emotive, psicologiche, ma se noi però immaginiamo proviamo a vedere di cosa si fa il diritto, che si limita a dare degli strumenti e soprattutto a livello di discorso e di interazione esterna tra le persone. E allora possiamo in qualche modo individuare una sorta di idea minima di perdono che non abbia molto a che, diciamo che non c'entri molto con invece quello che le persone sentono internamente. Allora possiamo anche immaginare, almeno questa è un po' una mia ipotesi, di identificare il perdono come una sorta di un mero atto, una mera rinuncia che qualcuno fa a un diritto, diciamo così, di vendicarsi, di rivalersi. Che, allora se il diritto ci dice questo? Ci dice che la legge deve in qualche modo assicurare la giusta vendetta a chi è stato colpito, a chi è stato danneggiato? Il diritto riconosce alle persone singole, ma anche allo Stato, nei casi di delitti dove l'offesa trascende la dimensione interpersonale, riconosce una pretesa a rivalersi in qualche modo, che può essere nel caso delle persone tra privati una pretesa di risarcimento del danno, nel caso dello Stato una pretesa a punire. Però correlativamente a questa pretesa il diritto riconosce anche degli strumenti in cui il titolare della pretesa può rinunciarvi in qualche modo. Per esempio, nel diritto civile, in questo caso, nel caso in esame, i familiari della vittima potrebbero intervenire nel procedimento penale per ottenere un risarcimento del danno. Possono anche non farlo, possono anche rimettere il debito espressamente. Nel caso dello Stato, quando interviene a punire, vi sono una serie di istituti come i cosiddetti atti di clemenza, come la grazia, l'amnistia, l'indulto, che possono essere utilizzati per motivi diversi, molto spesso di pacificazione sociale o anche altre finalità che sono ovviamente finalità politiche. Chiaro, è chiaro che vari elementi e vari piani si intrecciano, ma vorrei chiedere a Don Marco Pozza, che lavora nelle carceri, a questo punto, dopo la sua esperienza, lei ci ha raccontato anche del suo percorso, era una persona, lei si è definito, Don Marco, ghigliottinaio, diciamo così, giustizialista, e pensava che i carcerati dovessero morire tutti, questo fino a 5 anni fa, insomma, ci sembra di capire, non tantissimo, non era proprio l'archeologia non era proprio l'infanzia. E poi ha scoperto che potrebbe non essere così. Ora, dalla sua esperienza, questi carceri italiani come andrebbero riformati? Che tipo di esperienza sono? Perché la maggior parte delle persone, l'ha sentito anche dal filosofo del diritto, ritiene che non solo ci sia il diritto alla giustizia, ma anche il diritto a un risarcimento, che a volte ha dei punti di contatto con la vendetta. Qual è la differenza? Ma io penso, per cercare di rispondere alla sua domanda, il punto di vista di un ragazzo, di un prete che ci lavora da qualche anno in carcere, che un carcere così strutturato non serve assolutamente a niente. Sono convinto che la persona che sbaglia debba rimanere isolata dalla società per un certo periodo di tempo, ma se finché rimane isolata non ricostruiamo l'uomo che è deragliato, il percorso che è stato deragliato, rischiamo veramente di mettere fuori una persona che è più abbruttita, più in cattività di quella di prima. Noi, ma la società vediamo... come può tutelarsi dunque? Ma io penso che si ritorna sempre a quella distinzione che faceva San Tommaso nella sua Somma Teologia, quando diceva che misericordia e giustizia devono andare a braccetto, perché la misericordia senza la giustizia rischia di scadere nel buonismo e di diventare la mamma di tutte le dissoluzioni. La giustizia senza la misericordia rischia di diventare una tortura. Grazie a Don Marco Pozza, parroco della parrocchia del carcere Due Palazzi, il carcere di massima sicurezza di Padova. Grazie anche a Marco Silvi, insegnante di filosofia del diritto alla Bicocca di Milano. Noi ora diamo la linea alle news e torniamo subito dopo. Affronteremo il tema del lavoro e della soddisfazione degli individui. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Ha fatto bene il prefetto di Roma a precettare le poche sigle sindacali autonome che hanno organizzato la protesta degli autisti dell'ATAC. Roma è una città provata per gli scandali, per il degrado, per l'inefficienza. Organizzare scioperi, addirittura scioperi bianchi, quando il turismo segna il picco massimo e quando le temperature africane rendono vere odissee anche gli spostamenti più banali, è un atto di violenza verso i cittadini. È vero che il ruolo degli autisti, soprattutto se impegnati nelle zone più violente delle periferie, va assolutamente tutelato, ma quella necessità non deve mai prevaricare il sacrosanto diritto dei cittadini a potersi muovere con efficienza nella città. Alcuni dati sono sufficienti a mettere a nudo un vero disastro. A gennaio, ad esempio, per la sola linea 60, una delle più strategiche per chi percorre il centro, in una sola settimana sono saltate almeno 383 corse, quasi una ogni ora, e sui 2300 mezzi disponibili dell'ATAC 600 sono inservibili e non hanno pezzi di ricambio e languiscono le rimesse. Insomma, al di là dello stato pietoso dell'ATAC, che certo non è un'azienda degna di una grande capitale di un paese europeo, bisogna affrontare il tema dell'accanimento sindacale. È necessario cambiare le regole, lo dicono in tanti, lo dice anche il presidente della Commissione di Garanzia della Legge sul diritto di sciopero, Roberto Allesse. È maturo il tempo di abbinare a una nuova regolamentazione della rappresentanza sindacale anche quello di una nuova forma più democratica e civile per l'indizione degli scioperi. Insomma, è tempo di introdurre un referendum fra i lavoratori interessati alla protesta, e solo se il 50% più uno di loro dice sì all'agitazione, questa si può effettivamente realizzare. È il cosiddetto modello tedesco e se ne parla da quando era ministro del lavoro Gino Giugni, ma l'Italia delle corporazioni ha sempre rifiutato questa soluzione. È auspicabile che l'Italia sia davvero cambiata ed è tempo che dimostri di aver acquisito una nuova maturità sindacale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. È sempre attuale, molto il tema del lavoro. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, 9:08, è martedì il 28 luglio. Perché parliamo di lavoro oggi? Per analizzarne le ricadute sul benessere, sulla vita psicofisica degli individui, degli uomini, delle donne che lavorano e naturalmente anche delle famiglie che stanno intorno, perché inevitabilmente questo è un processo tutto legato. Allora, si parla di engagement, engagement, tra poco scioglieremo anche questo termine, questo fidanzamento presunto che ci dovrebbe essere tra chi lavora e i titolari di un'azienda o l'azienda stessa. Ma innanzitutto vi abbiamo chiesto perché voi vi sentite legati al vostro posto di lavoro, cosa vi appassiona o cosa vi farebbe sentire più affezionati, meno in cerca di un'altra possibilità. Perché sembra che i dirigenti italiani, nonostante gli stipendi non siano assolutamente da fame, siano tra i manager, diciamo così, meno affezionati all'azienda, sono sempre pronti a partire. Chiaramente questo non lo si sa e non è esplicitato fino al giorno della lettera di dimissioni, però stanno sempre cercando da qualche altra parte. Ora il manager è colui che non solo dà le direttive, ma in qualche modo dà anche l'esempio, e se lui stesso non si sente engaged, non si sente affezionato a ciò che fa, a dove si trova, come può d'altronde trasmettere passione a chi lavora sotto, un brutto termine ma è così, sotto di lui. Lavoro e soddisfazione, cosa al di là del salario, siamo partiti dai dirigenti proprio per partire da persone che non hanno problemi ad arrivare a fine mese eppure non si trovano bene nei posti che hanno, che occupano, non sempre naturalmente, ma i livelli di insoddisfazione sono alti. Al di là del salario, cosa vi motiverebbe a parità di stipendio a scegliere un'azienda invece di un'altra? Sceglierei l'azienda che è amministrata, attenzione, questo è il messaggio che ci arriva da Roberto, con criteri che condivido, è più vicina ai luoghi della mia vita. La mia azienda ha cambiato medico quando questo medico aveva avvertito i vertici, è un messaggio che arriva da Roma, Saverio, che i nostri livelli di stress, cioè di coloro che vi lavoravano, erano troppo alti. Ebbene, questa è stata la soluzione, cioè da sorridere. Ha cambiato medico. Flessibilità dell'orario di lavoro, ce lo segnala Pier da Milano, e anche una buona assistenza sanitaria integrativa. Roberto D'Incau, buongiorno. Pronto? Pronto? Si è creato il silenzio sulla linea. Roberto D'Incau. Adesso in questo momento lo dobbiamo recuperare perché il cellulare ci ha lasciato a metà, e chiamiamo dunque uno degli ascoltatori che ci ha mandato un SMS. Alessandro Zollo, buongiorno. Buongiorno. Lei è amministratore delegato, ci ha scritto in questo messaggio, sì, di Great Place to Work Italia. Esatto. Che significa e cosa fate? Analizziamo climi organizzativi per mestiere fondamentalmente, e quindi chiediamo ai dipendenti come stanno. Avete a disposizione molti dati, immagino. Su quante persone avete svolto questa indagine? Allora, ogni anno in tutto il mondo, noi siamo presenti in 50 paesi, analizziamo circa 7.300 aziende, abbiamo circa 5 milioni di pareri dei dipendenti che rispondono ai nostri questionari. Ora, quindi un database abbastanza, abbastanza significativo e corposo. Ci sembra di capire da quello che leggiamo sui giornali, soprattutto stranieri che dedicano grande attenzione a questo tema, che l'elemento economico, per quanto è chiaro rimane una delle prime leve di motivazione per la scelta, è sempre più accompagnato in qualche modo da incentivi che con i soldi hanno poco a che fare. Voi cosa osservate? Verissimo, verissimo. Diciamo che dato un livello che noi definiamo igienico di trattamento economico, cioè che permette comunque di condurre una vita normale, poi i motivi per cui le persone cambiano azienda o vengono attratti da altro tipo di lavoro non sono solo ed esclusivamente economici. E quali sono? Ce li citi brevemente. Ma guardi, la fiducia è nei confronti del management o delle persone con cui si lavora e nei confronti dell'organizzazione è fondamentalmente il primo degli elementi che prendono in considerazione, e poi tutto quello che stavate dicendo prima, quindi tutta la parte di flessibilità, la parte di supporto alle problematiche familiari, quindi di welfare. In Italia ormai si sta lavorando moltissimo sotto questo punto di vista. Guardi, le cito solo una ricerca di LinkedIn, per cui non nostra, che misura per quale ragione le persone cambiano lavoro, e il 56% cambiano lavoro per andare in un'organizzazione che sia un ottimo, un eccellente luogo di lavorare, dove lavorare, non tanto per il tipo di lavoro piuttosto che per il livello salariale, eccetera, eccetera, ma perché si vogliono sentire utili, apprezzati e vogliono sentire che stanno facendo qualcosa che ha senso. E chissà se questo è presente soprattutto nei più giovani. C'è una divisione anche per età, lo scopriremo tra poco grazie ai nostri ospiti. Prima però voglio andare voce anche a voi, siete tanti. Chiamate all'800 24 00 24. Giampiero, grazie per aver atteso. Buongiorno. Sì, buongiorno. Scusate il modo di parlare, ma l'emozione, non sono abituato a parlare ad una radio. Niente, io volevo solo prendere la conoscenza di una situazione che c'è nel mondo. Io lavoro per un'azienda che è la distribuzione di elettrodomestici, telefonini, eccetera, come tante che conoscete benissimo. In questo settore noi, un esempio, la domenica ce lo dicono venerdì. Vi dicono il venerdì che avrete la domenica occupata. Esatto, perché esatto. Problemi quando c'è da chiedere i permessi. Noi abbiamo monte ferie che va dagli a 700-800 ore. Io per esempio ho 800 ore di arretrati, come me e altri colleghi. Cioè non potete allontanarvi mai, insomma? Anche perché siamo sotto personale. Sì. Con i tempi che corrono, giustamente, uno fa quello che può. Orari... Ma voi siete sotto personale, come ha detto lei Giampiero, perché? L'azienda è in perdita perché c'è la crisi o perché non si vuole assumere? Perché non si vuole assumere, perché l'azienda ha aperto negozi ancora. Perché ormai adesso c'è questa possibilità, fanno lavorare ragazzi di 20 anni a 500 euro al mese facendogli fare le 8 ore al giorno e addirittura le domeniche, non potrebbero però lo fanno, e io ho 58 anni, ormai non lo so, non vedo l'ora di andarmene, perché ormai è la voglia di venire a lavorare. Io sono andato a lavorare per una vita, andavo contento, volentieri. Ed è sempre più demotivato, Giampiero? No, non ho più motivazione, non ho più motivazioni. E questo è un grande spreco per la sua azienda. Esatto, ma non siamo soprattutto numeri. Esatto, lei non è un numero per sé, non credo sia divertente ogni mattina. No, è brutto perché ci si ammala, mi creda. Giampiero, dentro. La credo e l'assicuro che la capisco benissimo, quindi non abbia quella, come dice lei, timidezza a parlare per radio, perché la situazione che lei ha illustrato e l'ha fatto in maniera più che esemplare, più che efficace, riguarda milioni di persone. Intanto grazie Giampiero, e cercheremo di capire anche come si potrebbe uscire da una, non dico da un'azienda del genere, ma da una situazione personale del genere. Per farlo viene in nostro aiuto il nostro ospite Roberto D'Incau. Buongiorno, adesso c'è? Ci sono, potenza degli smartphone era caduta la linea. ci sono. No, non aveva tanta voglia di lavorare, perché noi poi non la paghiamo, perché è semplicemente esatto. Un ospite, poi andiamo in giro a dire ma la leva economica non conta, siccome non la paghiamo lei invece è rimasto lì col suo cappuccino, dica la verità Roberto. Assolutamente, ho preferito farmi il cornetto e brioche, poi adesso entro. Allora, lui innanzitutto è un headhunter, quindi un cacciatore di teste, che è una cosa da film, e anche un life coach e autore del libro Chi non lavora non fa sesso. Questo è un libro che mi hanno messo in evidenza in scaletta, anche se in realtà il suo ultimo libro è Il lato bimbo. Cioè ha anche un blog in cui parla dell'intreccio importante, imprescindibile, tra il lavoro, l'entusiasmo, il gioco e la passione. Quali sono gli elementi sui quali lei si sofferma sempre di più quando le persone le scrivono, cosa le segnalano? Noi abbiamo sentito Giampiero adesso. Ma sì, sicuramente il caso di Giampiero fa assolutamente riflettere, perché poi è la cosa che fa più riflettere, il fatto che è un'azienda che va bene, quindi questo tipo di modo di utilizzare le risorse lascia pensare che non ci sia una grande attenzione, ed effettivamente porta poi a demotivare. Allora, i libri che io ho scritto sono tre, appunto, Chi lavora non fa sesso, Quasi quasi mi licenzio, e l'ultimissimo, Il lato bimbo. Alla fine hanno tutti un leitmotiv, cioè parlano di questo, che sono sono nati, li ho scritti negli ultimi 5 anni e sono tutti frutto di questo nuovo modo di lavorare post-crisi, che ha portato a delle riflessioni, dei cambiamenti, anche dei cambiamenti di paradigma. E l'ultimissimo appunto sul tema dell'entusiasmo, ecco lì il focus di questo libro è la motivazione intrinseca, cioè la motivazione estrinseca, come nel caso di Giampiero, mi sembra che non ci sia, perché la gestione delle risorse di questa azienda non è esattamente ottimale. Si tratta però ogni giorno comunque di andare a lavorare e di cercare di far sì che questo stare male sul lavoro non ci porti poi a stare male anche dal punto di vista psicosomatico, no? Le cosiddette malattie, stress collegate, eccetera. Quindi Però sono tante, sono sempre di più e sembra quasi ci sia una cecità, cioè molte aziende chiudono gli occhi su questo aspetto. Assolutamente, sì, non si può generalizzare, perché... È vero, però posso dirle una cosa, Dincao? Sì, cioè, sì, noi oggi anche abbiamo preso in esame, anche durante i nostri notiziari, il rapporto sull'area euro del Fondo Monetario Internazionale, no? Uh-huh. E dice, ci vorranno 20 anni perché la disoccupazione scenda ai livelli delle pre-crisi. Quando siamo in un ambito post-crisi, ma ancora traballante come questo, e molte delle persone che ci chiamano, che ci segnalano le loro esperienze, ci dicono: è un lusso scegliersi l'azienda, come possiamo permetterci di scegliere il lavoro quando in realtà dobbiamo ritenerci fortunati ad averne uno? Cosa risponde? Ah, questo è sicuramente vero, è anche vero che, come dire, ancora qui bisogna fare dei distinguo, perché poi alla fine il lavoro sicuramente non c'è, c'è su offerte di cui l'azienda hanno bisogno, cioè anche in un momento come questo, negli ultimi anni, negli ultimi 6 anni, mi sono sentito dire spesso: ma tu come headhunter ti girerai i pollici, no? Non è così. Ed è così, lei si gira i pollici? Devo dire che no, non è così, c'è comunque una richiesta sicuramente inferiore, cioè anche noi nel nostro settore abbiamo visto che rispetto agli anni pre-crisi, quindi rispetto al 2006-2007, sicuramente c'è stato un grosso calo. Semplicemente le aziende cercano delle figure particolari, con dei know-how particolari, ecco, quindi bisogna fare un distinguo, secondo me, di fondo tra, diciamo, un'offerta indistinta, dove alla fine è purtroppo bruttissimo dirlo, ma è orrendo, ma dire che l'approccio magari al lavoro in alcuni casi è quasi una commodity, cioè alcune risorse vengono utilizzate, come diceva nel caso di Giampiero poco fa, come commodity. Lei è gentile, vedesse cosa ci hanno scritto i nostri ascoltatori. Dicono che sono utilizzati a volte proprio dei costi, si sentono dei costi. Non tutti, alcuni raccontano di esperienze molto motivanti e in generale sono coloro che riescono poi a far conciliare la propria vita privata, grazie a flessibilità sugli orari, con il lavoro. Questo è quello che ci scrivono al 349-238-6666. Ma moltissimi sottolineano l'educazione, la gentilezza, la comprensione del diretto superiore, cioè di quello con cui hai a che fare immediatamente. Noi siamo partiti da un rapporto sui dirigenti, ma non solo. È chiaro che abbiamo sentito Giampiero, abbiamo sentito persone che non occupano dei posti dirigenziali, anzi, perché sono problemi che poi traslati un po' tutti hanno. E Claudia dice che vorrebbe una ditta meno fordista e più disponibile al part time e al lavoro da casa. Questa è Claudia e ci ha mandato un sms da Firenze. C'è poi un'altra ascoltatrice, Marina, che parla di asilo nido aziendale. Infatti un capitolo a sé rivestono poi i problemi delle famiglie, alcuni dicono delle donne, ma non è così, non sono solo i problemi delle donne. Spesso quando le aziende poi adottano delle policies, delle procedure che agevolino il poter usufruire di permessi più frequentemente o orari flessibili, sono tantissimi anche padri, anche uomini che richiedono di poterne usufruire. Poi c'è la questione della produttività, che approfondiremo tra pochissimo. Marco, buongiorno, pronto? Buongiorno. Buongiorno Marco, lei da dove chiama? Da Milano. Da Milano? Sì, dica. Mi faceva un po' specie sentire queste argomentazioni da parte del dottor Dincao, credo che si chiama. Dincao, Dincao, Roberto Dincao, ecco, sì. Perdoni, no. Perché in tutte le aziende ormai il problema fondamentale è l'obiettivo a cortissimo raggio, non viene dato il tempo né ai manager, né ai dirigenti, né al middle management, e neanche meno ai livelli più bassi, di stabilizzare se stessi e l'azienda, perché alle spalle ormai c'è solo finanza e l'economia reale non guarda più a lungo termine. Se uno ha degli obiettivi di 3 mesi, di 6 mesi e fa di tutto per raggiungerli, poi si ritrova nei 3 mesi, nei 6 mesi successivi a dover faticare per tutto quello che ha realizzato prima. Quindi mancanza di visione a lungo termine, secondo lei questo è il problema principale per cui si sta male al lavoro? E tra l'altro è una cosa che incide pesantemente anche sull'economia in generale, perché poi queste aziende, tutte le aziende che sono guidate in questo modo, finiscono per essere sempre alla rincorsa di obiettivi, a volte addirittura mensili, dove se non si realizza a fine mese, il manager va in completo stress perché deve riportare un risultato che non ha senso. E poi riporta lo stress naturalmente anche a chi sotto questo management lavora. Grazie a Marco da Milano. Alessandro Zollo ancora con noi? Sì, certo. E quindi lei, che è l'amministratore delegato di questa azienda, si chiama Great Place to Work, quando invece si sceglie, ha sentito alcune delle lamentele fino a questo punto, quando si sceglie di cambiare rotta, no? Di gestire l'azienda o qualunque cosa essa sia in maniera diversa, perché poi questi problemi ci sono anche nel pubblico, il problema della motivazione, noi diciamo azienda ma un pochino riduttivo. Cosa succede in termini di produttività? Diciamo che io vengo incontro, no, alle esigenze di chi lavora per me, gli lascio più flessibilità, lo motivo, lo ascolto, lo rendo. Poi questo, qualcuno ci chiede, ci fa anche questa domanda, forse è un imprenditore preoccupato, ne approfitta? Ne approfitta, sì, noi analizziamo... Ma ne approfitta in senso negativo, mi chiedono. No. C'è chi dice è molto meglio tenere la frusta con chi lavora, tenere insomma le redini, perché altrimenti ognuno fa quello che vuole e non si capisce più niente. No, non funziona così. Noi abbiamo dati italiani almeno dal 2007 ad oggi che dimostrano che le aziende che hanno eccellenti climi organizzativi e quindi fiducia al loro interno performano, usando un bruttissimo termine, molto meglio della media del loro settore. Noi pubblichiamo una classifica delle aziende che hanno ottimi climi organizzativi ogni anno, come in tutti gli altri paesi, e se analizziamo questi dati, mediamente, non solo in Italia ma anche all'estero, il delta fatturato, diciamo così, è 3 volte quello della media del settore, per cui cioè, l'aumento di fatturato, mentre gli altri vanno indietro. Basta vedere gli ultimi anni in Italia, queste aziende continuano a crescere. Quindi e sono quelle che hanno investito di più sulle risorse umane. E sono quelle che ascoltano i propri dipendenti, che cercano di risolvere i problemi e che poi le mettono in condizioni di dare il meglio di sé. Però ci segnalano alcuni che queste aziende che avrebbero questo atteggiamento virtuoso, tra virgolette, che poi è semplicemente un atteggiamento, se si vuole, opportunista, nel senso che ottieni di più poi, sono spesso sì in Italia, ma in realtà sono aziende multinazionali, è vero? Verissimo, verissimo. Ma perché? Perché sono più abituate ad ascoltare le proprie persone, perché le selezionano in un certo modo, perché gli danno responsabilità. E quindi voglio dire, una volta che io seleziono una persona che ha determinate caratteristiche, poi non è che gli dico cosa fare, accetto da lui quelle che sono le sue decisioni, proprio perché l'ho selezionato per quello. Queste aziende sono anche inevitabilmente, immagino, più meritocratiche. Assolutamente, questo è il secondo dei grossi problemi italiani. Quando facciamo i controlli, le stime, diciamo così, e le differenze soprattutto sul Nord Europa, meritocrazia e leadership vengono fuori come le due carenze grosse italiane. Stiamo anche facendo uno studio gratuito con le aziende italiane per cercare di sensibilizzare a questo tema. Ma perché secondo lei ci sono resistenze in Italia? Cioè noi copiamo, anzi pedissequamente, tutto dal Nord America, dagli Stati Uniti, dall'estero. Siamo sempre molto esterofili su diversi aspetti. Eppure sulla gestione aziendale abbiamo ancora questa mentalità, non sempre chiaramente, un pochino ottocentesca. Beh, c'è da dire che però noi stiamo analizzando aziende sicuramente di matrice straniera, ma dove ci lavorano persone italiane, quindi manager italiani, lavoratori italiani, quindi noi siamo in grado di essere meritocratici. Siamo in grado ormai, siamo anche in Italia, di farlo, perché non dimostriamo. Ci fidiamo dei nostri dipendenti. No, il problema è che purtroppo riusciamo a farlo in quelle aziende che ci permettono, attraverso i processi che mettono in atto, quindi le valutazioni delle persone che lavorano con noi, piuttosto che analisi a 360 gradi, del tipo io vengo valutato non solo dal mio capo, ma vengo valutato dai miei collaboratori e vengo anche valutato dalle persone che lavorano con me. Tutti questi processi che, diciamo così, vengono instaurati in aziende diciamo esperte sotto il punto di vista della gestione organizzativa, nelle aziende di cultura e matrice italiana non sempre vengono prese in considerazione, anzi raramente, direi. Roberto Dincau ha sentito, ci ha mandato un messaggio Alessandro Zollo, l'abbiamo richiamato subito, è l'amministratore delegato di Great Place to Work in Italia, cioè le aziende migliori, cercatele se qualcuno è interessato naturalmente a cambiare. Lei è un headhunter, cioè ha sempre a che fare con persone che stanno cercando un altro posto di lavoro. Che richieste le fanno? Perché sono insoddisfatti? Perché vogliono cambiare? Ma c'è molta insoddisfazione proprio per questi temi che sono stati, diciamo, enunciati fino ad ora. Cioè sicuramente in questi anni c'è stato un peggioramento del modo di stare in azienda. Quindi è peggiorato secondo lei in questi anni il clima? Sì, sicuramente la crisi ha portato a più stress, più ansia, più paura di perdere il posto di lavoro sicuramente. Per quanto riguarda le aziende italiane devo dire che, ecco, qui così una vena di ottimismo, ecco, mi è capitato recentemente, ad esempio, perché mi sembrava molto interessante sì. Quello che lei diceva sulle donne prima, sui padri, un'azienda italiana multinazionale che ha fatto un programma invece secondo me molto utile sulle babysitter on demand, cioè ha fatto degli accordi per cui, non so, ore 9 del mattino stamattina il proprio figlio, adesso no perché sono in vacanza, ma a settembre ha bisogno di essere seguito da una babysitter perché non sta bene eccetera, chiamata e arriva una babysitter pagata dall'azienda e concordata prima e prescelta prima. Cioè questo è uno degli incentivi che lei ha trovato tra i più efficaci, perché le persone sentono che l'azienda si preoccupa anche dell'aspetto privato. Esatto, questo non vuol dire che l'azienda sia un'azienda benefattrice, significa che è un'azienda invece che ha un'attenzione alle problematiche reali di chi ci lavora e che quindi ha messo in atto, e banalmente anche la produttività, perché è chiaro che poi un genitore, padre o madre che sia, che si ritrova una mattina a dover gestire una malattia del figlio, sta a casa, no? Quindi questa cosa ha anche un effetto positivo sulla produttività in azienda. Lei mi ha chiesto cosa cercano oggi le aziende. Io ho un osservatorio particolare perché, diciamo, sono un esperto di due settori, quindi il settore della comunicazione, dei media, e il settore della moda e del lusso. Grazie a Dio finora, adesso con borsa cinese permettendo, il settore del lusso ha tenuto, è stata un'industria italiana trainante. Cercano diciamo professionalità. No, io non le ho detto, scusi, sì. No, non sì. Le ho chiesto cosa cercano le aziende, le ho chiesto cosa cercano le persone, gli individui persone, che vogliono certo. Cambiare lavoro, perché? Cosa stanno cercando? Beh, cercano qualcosa di nuovo, c'è molta insoddisfazione, per cui si pensa che cambiare azienda possa risolvere i problemi. Devo dire che oggi i giovani in particolare hanno un'attenzione diversa rispetto al clima dell'azienda, cioè se noi eravamo così fortemente orientati alla carriera, oggi ventenni e trentenni sono molto attenti a aziende che offrono un work-life balance migliore, quindi un ambiente lavorativo migliore, magari non so, ci sono alcune aziende che sono note per essere fortemente competitive che piacciono meno ai giovani, ecco. Quindi questo si cerca, per quanto riguarda i più giovani, delle aziende che permettono delle carriere e anche uno sviluppo, diciamo, di sé, che non siano poi, abbiano un effetto devastante per quanto riguarda le persone. Sulla propria vita, grazie. Dincau, rimanga con noi che naturalmente approfondiremo ancora questi temi, grazie anche per tutti i messaggi che state mandando al 349-238-6666, tra poco li leggeremo, tra poco torneremo proprio con voi, perché al di là dei confronti internazionali, al di là dei risultati delle statistiche, le storie delle persone, quelle più significative. intervista. I mille aspetti dell'attualità. Attenzione, attenzione, 36 minuti dopo le 9 ci segnalano perfino delle sgridate perché qualcuno è andato in bagno alle 12, questo è Lello da Vicenza, no alle 11.45, poi il capo mi ha detto non potevi aspettare la pausa pranzo per andare in bagno, ecco come siamo messi. Ora noi cambiamo prospettiva, cosa vuol dire? Il problema è rilevante. Il New York Times si vede sempre ogni giorno come articolo più cliccato, anche questo è un brutto termine, ma ormai l'abbiamo sdoganato. Uno degli articoli che parla dell'equilibrio tra vita privata e lavoro. Il presidente degli Stati Uniti Obama addirittura ha parlato in pubblico chiedendo, proprio per avere poi dei dipendenti più competitivi e per attrarre i migliori, flessibilità per i lavoratori federali e dello Stato e condizioni di lavoro migliori. In Giappone il governo di Shinzo Abe, pensate, ha dovuto mettere per legge il divieto di fare straordinario oltre una certa ora, non per questioni economiche, proprio per lo stress eccessivo che ha dei costi sociali tremendi. Cambiamo prospettiva perché al di là delle responsabilità delle aziende, adesso noi vogliamo capire cosa può fare ogni singola persona, ogni individuo per cambiare la situazione. Perché a volte la prima cosa da fare anche per ottenere non solo l'aumento ma condizioni diverse è, sembra banale ma non si fa spessissimo, chiederle. Tante volte ci si lamenta in corridoio alla macchinetta del caffè ma non si chiede, non si alza la testa, non voglio dire rivendica, semplicemente si comincia sedendosi a un tavolo e dicendo senti io ho queste esigenze, mi vuoi, mi apprezzi, mi stimi, benissimo, sappi che mio figlio ha bisogno di me da A, è compatibile questo con le esigenze dell'azienda? Banalissimo, semplicissimo, non si fa. Doug Heidelberg, buongiorno. Buongiorno Loreni. Buongiorno, e lei è canadese, Doug è un motivatore, uno psicologo, è un coach chiamato dalle aziende proprio per abbassare il livello di stress, questo di solito in Nord America. Lui, se volete seguirlo anche su internet, poi lo potete far approfondire, ha un blog, si chiama Managing Me a Toronto. È vero o no che dovremmo chiedere di più, esternare di più quelli che sono i nostri bisogni, Doug? Assolutamente, diamo colpa a tante altre persone, ma al fine spesso ci sono le cose che possiamo fare e dovremo fare più per noi stessi, assolutamente. E cioè da cosa bisogna partire? Ma per esempio quello che hai appena detto è veramente come tanti dei miei clienti, io ho un'idea, un esercizio per tutti loro che hanno un lavoro impegnato, che forse hanno dei figli, che chiedono tante cose. È un esercizio che può aiutare, si comincia così, si pensa, si cerca la roba che veramente si piace da fare e le cose che vorremmo fare più per noi stessi. È la cosa che non facciamo e non aspettiamo per il momento perfetto. Non sarà mai il momento in cui nessun altro ci vuole per qualcosa qua o qualcosa lì. Altrimenti stiamo aspettando tutta la nostra vita. Cioè lei dice, Daga, a volte rimandiamo la nostra realizzazione a un altro momento, quando avremo pagato il mutuo, quando sarà cresciuto il figlio, non lo so, sto facendo esempi così tratti alla spicciolata dalla vita quotidiana. Lei dice il momento perfetto non arriverà mai, quindi no. Qual è l'esercizio? Quindi, perché è interessante, che esercizio dovremmo fare? Dovremmo scrivere quello che veramente ci darebbe soddisfazione? Ok, ecco la prima cosa. Trovi un tempo, un periodo di un'ora, da solo, senza interruzione, e pensa che cosa sono le cose che ti piace fare il più per te o forse con la famiglia. Non so, andare in bicicletta, leggere, scrivere un libro, qualsiasi cosa. So, prima cosa, quali sono le cose che veramente ti piace da fare? Okay, sì. La prima cosa. So, se avessimo più tempo libero, che cosa vorremmo fare con questo tempo? Ok. Adesso, la prossima cosa che facciamo è la domanda come possiamo sistemare questa che siamo, non so la parola in Italia, siamo forzati a farlo. So, per esempio, sappiamo tutti, abbiamo un giorno impegnativo oggi. Sì. Ci siamo svegliati presto, abbiamo fatto tantissime diverse cose e dopo il lavoro ci sono sempre più cose da fare, più cose. E vorremmo scrivere quel libro, vorremmo andare in palestra, vorremmo andare in cinema o qualcosa. Però sembra che non ci sia mai tempo. No, e al fine, dopo l'ultimo piatto è pulito, come ci sentiamo? Siamo stanchi. Ma supponiamo che in un momento, dopo un caffè, un paio di giorni prima, supponiamo che abbiamo sistemato con un amico, un'amica, che oggi, stasera, loro vengono da noi alle 9 e usciamo da fare una cosa. Sì. No, alle 9 il telefono suona e chi è? Non lo so, chi è? Chi ha il telefono? È il tuo amico o qualcun altro? È... Ma il mio punto è che stiamo sperando un po' che questo amico non può arrivare perché siamo stanchi. Però se abbiamo già sistemato con questo amico... Poi usciremo lo stesso, è chiaro. Dobbiamo, lasciato, non so la parola giusta in italiano, ma lasciato per noi stessi, non scriviamo quel libro, non usciamo al cinema, non andiamo in classe. Ho capito il parallelo, stati. Quindi se qualcuno prende un appuntamento lo affronteremo anche se ci arriviamo in condizioni di stanchezza, ma noi non prendiamo abbastanza appuntamenti con le cose che veramente ci appassionano, per le quali siamo venuti al mondo e che dovremmo fare, cioè tendiamo a cacciarle sempre in un angolo perché sembra non ci sia mai tempo. Quindi il suo consiglio è pianificare sistematicamente, mettendo per prime nell'agenda proprio queste cose. Esatto, supponiamo che stasera abbiamo un corso intensivo e non lo so, suonare chitarra. Sì. E abbiamo questo anche con un amico e così siamo forzati a farlo e siamo contentissimi. Però lasciato il nostro da soli lasciamo perdere tante volte, non facciamo. Non so se quello ha senso. Non ha senso e dovremmo avere... Quindi questo è uno degli esercizi che lei insegna nelle aziende per ridurre lo stress. È un'altra di quelle cose che sembrano banali, però che non si fanno mai. Noi di solito quando apriamo l'agenda, scriviamo, mettiamo quelli che sono gli obblighi e non sempre molto soddisfacenti. E c'è tutto un filone che sta andando per la maggiore e sembra abbia delle buone basi per questo successo, che e indica, insegna proprio a partire da ciò che ci soddisfa e ci realizza fino in fondo, perché dovremmo essere fedeli a questi talenti, credere in noi stessi e cercare di capire che un giorno potremo anche essere remunerati per quello che davvero ci piace. Ne parleremo tra pochissimo, prima però la situazione del traffico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ringraziamo tutti quelli che stanno aspettando ora in linea. Dobbiamo cercare di dar la parola a tutti. È un invito scontato, retorico, alla sintesi, perché sono importanti i messaggi di tutti. Io tornerei con Roberto D'Incau per cercare di capire, giro anche a lei la domanda, D'Incau, quanto conta quello che poi chiediamo, quanto non diciamo sui posti di lavoro e quanto magari invece verrebbe anche accolto. Molto soddisfatto se espresso? Ma sicuramente molto, nel senso che in questo momento, ripeto quello che dicevo prima, cioè, proprio perché c'è questo clima un po' generalizzato di sfiducia, in cui sembra appunto che mantenere il proprio posto di lavoro sia già un grande lusso, certe volte non si fanno delle richieste. Ecco, invece io penso che anche in questo momento comunque sia giusto avere un piano di carriera, se possibile, capire dove si va a parare, se ci sono delle esigenze particolari, affermarle. Io non dico che ogni azienda ascolti, però non è neppure vero che nessuna azienda sia lì ad ascoltare quello che una risorsa ha da dire o da chiedere. Lei ha scritto quasi mi licenzio e qualcuno dice ma licenziarsi, stiamo scherzando, cioè avete un distacco dal al mondo reale, incredibile, è un lusso per pochi. Sì, allora, so che quel libro è effettivamente stata una critica che abbiamo ricevuto, cioè sembrava quasi un lusso, non è mai troppo tardi per cambiare vita. È vero che però il libro presenta modi molto diversi di realizzare un progetto lavorativo e personale di tipo diverso, ecco, quindi i progetti possono anche essere concreto, da persone ad esempio che hanno seguito carriere in cui non si ritrovavano, mi viene in mente ad esempio un giovane manager che lavorava nel settore finanziario, che a un certo punto aveva veramente la passione del legno e a un certo punto si è detto ma perché, anziché, mi diceva, io da Roma vengo ogni lunedì e su quell'aereo dico ma che ci faccio, ma che ci vado a fare a Milano, ecco, questo signore per esempio piuttosto giovane ha comprato quei pochi risparmi che aveva, quindi non parliamo di una persona particolarmente benestante, una falegnameria, e in questa falegnameria mi ha detto non è stato facile, però ti assicuro che in questi 4-5 anni sono riuscito a fare il mio progetto ed è tutto contento e felice, ecco, quindi voglio ci dire sono questo. tante storie che illuminano queste zone d'ombra, perché esatto. Poi ci sono messaggi anche molto cinici da parte dei nostri ascoltatori, molto disillusi, che dicono non è vero, non si può fare, bisogna accettare quello che si ha perché ormai la crisi ci ha spinto all'angolo, ormai il sistema. Io voglio semplicemente ricordare una cosa, che chi l'ha fatto? Lo stesso Doug Heidebreck che abbiamo intervistato prima e chi porta avanti questo tipo di situazioni in genere l'ha vissuto sulla propria pelle, cioè lui stesso ha lasciato dei posti che ti davano una certezza, una garanzia, uno stipendio per una sfida che ovviamente in certi momenti è difficile, poi hai sempre familiari, parenti, tutti che ti dicono sei pazzo, ti licenzi per metterti in proprio per seguire la tua passione, e spesso questo è demotivante. Altri che vanno oltre questo tipo di pressioni, poi guardandosi indietro 3 anni dopo, 5 anni dopo, generalmente sono soddisfatti. Sono storie che abbiamo sentito tante volte, ma vogliamo sentire le vostre, quindi buongiorno a chi diamo la linea ora. Andiamo a Torino. Pronto Paolo? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno Paolo, scusi l'attesa. Buongiorno. Cerchiamo no, di essere veloci e di arrivare al punto, dica. No, a me mi sembra veramente che sembra quasi un po' un fantascientifico sul fatto di cosa stiamo vivendo oggi nella potenzialità del mercato italiano, di questi manager, i nostri manager, che oggi troviamo ancora manager di 45-50 anni. Cioè, noi tendenzialmente stiamo a parte 70 anni indietro, no? E oggi vedi che trovano molta fertilità queste persone che fanno i libri, che fanno i loro corsi, magari hanno anche i soldi dall'Unione Europea, e l'azienda si dice, cavolo, l'ho fatto questo qua, io lo vedo anche nella mia, no? Tendenzialmente sulla costruzione che ho fatto io sono uno vecchio ormai, perché sono già obsoleto, devo cercare di arrivare alla pensione, per cui tendenzialmente, nonostante ho la motivazione di voler imparare e continuare a fare, però purtroppo ci sono dei muroglioni incredibili sulla struttura aziendale di management oggi italiani. Lei ha figli, Paolo? Io ho due figli, per cui tendenzialmente... E che messaggio trasmette loro sul futuro? Dice loro trovati un lavoro che ti porti, che ti assicuri uno stipendio, perché altrimenti... trasmette? Perché ci stanno ascoltando anche moltissimi ragazzi, certo. Giovani. Certo, allora, sui giovani sicuramente, adesso mia figlia va all'università, mio figlio sta ancora studiando le superiori, tendenzialmente loro, che voi sapete benissimo che è un altro aspetto della nostra indietreggia, che come siamo molto indietro noi in Italia, arriviamo a un punto di andate all'università perché adesso il diploma non serve più, serve la laurea. Oggi, domani ci saranno i laureati che sposteranno i tombini e faranno i falegnami e faranno questo, per cui bisogna metterselo nella testa, per cui il lavoro non è che la laurea completa la cultura, certo, di una persona in una società dove siamo ancora indietro di 20 anni. Grazie cui... Paolo, grazie, mi sembra molto chiaro il messaggio, è arrivato da Torino, noi ora cambiamo città, andiamo a Palermo. Pronto, buongiorno. Antonio? Buongiorno a tutti. Dica. Volevo portare un attimo la mia esperienza, non manageriale, perché non sono un manager, sono un semplice impiegato, sì. Però ho spesso a che fare, insomma, lavoro in una grande azienda italiana. E come... Quando sono stato assunto ero pienissimo d'entusiasmo. D'entusiasmo. Ora? Perché... Beh, adesso insomma rendendomi conto che l'azienda non è affatto meritocratica e che spesso viene valutato da manager che comunque non hanno alcun tipo di, non avendo fatto alcun tipo di gavetta, non hanno nemmeno gli strumenti per poterti valutare, Cioè non conoscono l'azienda, insomma, in qualche modo, non conoscono proprio il campo in cui operate. Magari conoscono alcune parti dell'azienda, sottovalutandone completamente altre, e comunque sia nell'azienda in cui lavoro io i giovani sono abbandonati al proprio destino, eh. In pochi riescono a farsi strada. Antonio, mi dica anche un'altra cosa, quindi lei ci sta sottolineando aspetti molto diffusi e segnalati da tanti, cioè mancanza di meritocrazia e livelli dirigenziali che a volte appunto non sanno motivare le persone. Per far tornare quella voglia che aveva lei all'inizio, no? Se io le do la bacchetta magica e dice da domani torno entusiasta, perché? Cosa servirebbe? Un progetto che la coinvolge? Un aumento di stipendio? Cosa servirebbe? No, innanzitutto servirebbe secondo me un progetto che valuti tutto l'insieme dell'organico, però che lo valuti proprio per farne un esempio pratico anche con dei test, per dire che non venga completamente abbandonato. Quindi già sarebbe qualcosa il mettersi, il poter fare dei paragoni con gli altri per vedere a che punto si è. Cioè, studiare una strategia di crescita che sia, non dico che uno debba avere per forza il percorso di carriera, ma che almeno debba vedere la luce in fondo al tunnel. Strategia di crescita, grazie. Grazie Antonio, perché è un'altra delle parole chiave. Elisabetta, sentiamo anche una voce femminile, buongiorno. Buongiorno signora. Sì, Elisabetta, dica brevemente. Brevissima. Si licenzia dalle grandi multinazionali perché problema economico. Io costo, vista la mia età, ho quasi 60 anni, 3 volte più di una persona che ha 20 anni. E quindi lei è stata lasciata a casa. Non conta. Quello che lei può portare al tavolo, come si dice, non conta, lei è stata lasciata a casa. E questa è la sua esperienza? La mia esperienza è che non conta 30 anni di lavoro. Semplicemente sì, è un costo, qualcuno ci diceva vengo segnato nella colonna delle spese dell'azienda e quindi non vengo apprezzato. Elisabetta, grazie per questa testimonianza, purtroppo Elisabetta tra l'altro ci scriveva, è una dirigente, purtroppo non è un esempio è così isolato, una voce fuori dal coro, ma sono molti anche in questa situazione. Perché quello che è la conoscenza che uno ha accumulato in un'azienda anche delle dinamiche interne di quello che il cliente vuole non può essere valorizzata, perché non conta e non, prima di passare al licenziamento, al taglio così lineare, non si può trovare il modo, anche risparmiando per l'azienda, di far sì che questo venga trasmesso ad altri lavoratori, per esempio ridistribuendo, ricreando. Sempre più aziende lo fanno e quelle che lo fanno in genere vedono un aumento della produttività. Roberto D'Incao, ha sentito la motivazione e anche la crescita personale. Ho sentito, ecco, il quadro che ne emerge, diciamo, non è tanto confortante, ma questo diciamo lo sappiamo perché basta leggere i giornali ed è evidente che la realtà del mondo del lavoro italiano è molto dura. Ecco, quello che che io voglio un po' far passare a me è piaciuto anche l'intervento di Doug, l'intervento un punto di vista anglosassone, cioè il fatto che ci sono due possibilità: o cambiamo la realtà e quindi questo non so come, però insomma bisogna intervenire a livello diciamo macro, ecco, questo non è la risposta che può dare una persona che fa il mio mestiere, cioè le Dante, l'executive coach, oppure nel mio piccolo, nel micro, io penso che così un'iniezione, una piccola iniezione di ottimismo, una piccola iniezione sul fatto che stando così le cose bisogna raccogliere le risorse e fare buon viso al cattivo gioco, ecco, questo è il mio consiglio, perché altrimenti davvero lavorare è una parte talmente importante della nostra vita, delle nostre giornate, che doverla affrontare, dice, con questo spirito può essere molto dannoso, come ci ha detto un ascoltatore, fa ammalare. Ci sono moltissimi temi che si legano a questo, tantissimo è stato scritto e tante aziende che stanno cambiando completamente la struttura gerarchica, anche quella potrebbe essere una strada da percorrere, ne parleremo in puntate successive. Intanto grazie a Silvi Boccaletti, a Peter Bescapè in regia, a Luca Cremonese in redazione con Laura Faggi, Massimiliano Lollis e il grandissimo Alessandro Longoni hanno creato questa puntata. Irene Zerbini vi dà appuntamento a domani mattina.